buonasera, per il controllo qua Nord Sardegna. Sì, la reale da Sassari, se mi puoi dire come ti sta arrivando. Vuoi ripetere gentilmente? Aquila Reale, da Sassari, operatore Giuseppe. Ciao Giuseppe, ciao Giuseppe. Qua si 9+60, 9+60, periferia Sorso Porto Torres. E niente, l'audio non è amplificato, però è buono, comprensibile al 100%. E tutto, beh, tutto regolare. Al mic Gavino, ripeto, zona Sorso Porto Torres, periferia, compagnia di Tino. Avanti Tino. Sì, con la buonasera Giuseppe, a me mi arriva un pochino più basso, a 9.10, però la radio è buona, ottima, normale, senza amplificazione, comunque è abbastanza forte. La mia zona è Lima Delta, dai, Latte Dolce. Allora, ragazzi, vi ringrazio per il controllo, buon proseguimento. Mi vedi? Perfetto, dai, alle prossime, noi ci trovi qua sulla 27.105. Modalità, frequenza modulata, FM, avanti Tino. Aspetta, Giuseppe, io non ho capito dove stai modulando tu. Sta modulando zona ottava, Sassari. Zona ottava, Sassari, ok. Salutami a Gigino allora, Gigino Vulcano. Non mancherò, grazie. Ciao. Ciao, buon proseguimento. Hai capito, va bene. È così. Va bene, comunque, adesso domani proviamo a fare un'altra cosa. Scusami, saluta Giuseppe. Sì, ciao Giuseppe. Ciao, e poi sono a risentirci. Prova a sistemarlo o altrimenti puoi provare anche a fare un'altra cosa, prendi un pezzo di legno e gli fai una sorta, dove tu pensi che passa lui, gli fai una sorta di trappola e gli metti quel cavo e un pochino collegato, così proprio va a passare sul filo e di lì diventa un guaio. Vabbè, quello è fatto, no, perché adesso sembra così, ma tu sai, no, che i miei non sono giovanissimi, quindi trapiantare balevare si stancano anche, e vedere rovinato quello che si fa, insomma, dà fastidio, ma non tanto da lui che è piccolino, tanto dai miei che si mettono a giocare, quindi, ma si mettono a giocare grazie a lui. Ma è strano che Argo l'abbia accettato così, un cane da fuori, boh, ma ci pensi come sono questi animali? Allora, questo qua l'ha accettato perché forse essendo piccolo, sbirivinzolo, piccolino, curioso, mentre lo chiama. Insomma, quindi giocarellone, gioca molto con Aaron, quindi è successo che lui gioca molto con Aaron stesso e l'ha accettato. Quelli del lato opposto, che sono un po' più massicci, non si possono vedere uno con l'altro, sono tutta la mattina, ma credimi, sono dovuto alzare anche presto per andare a togliere da lì, perché stanno mangiando la rete in acciaio, la stanno rompendo. È perché sicuramente, dai, capiscono che lui è più piccolo, capiscono che non è come loro, allora l'hanno accettato. Anche i miei sono così, quando il cane è piccolo, no, maledizione con i danni manni, però già so fidiati. Bisogna stare un po' attenti, ma anche quando li porto in giro, sono con i cani piccoli, vanno a giocare incuriositi, capito? Incuriositi, poi i miei sono bravi, non fanno branco, non mi da tutti nulla. Però col cane grande io mi accorgo che cambiano un po', con i cani grandi cambiano un po' di cose, no. Sì, intanto guarda, molto semplice vedere se sta andando, dai, se è efficiente il capo, te lo ripeto, gli fai una sorta di picchetto, una sorta, ma il picchetto è bello inserito a terra, sì. Sì, ma il picchetto è... sì, avevamo fatto nulla, ti ricordi la mazzetta proprio bene bene. No, già è poi legato con una fascetta anche. Tu stai parlando del picchetto di massa? Esatto, ma no, il picchetto, io parlo, sì, vabbè, a terra inserito. Allo strumento il picchetto è attaccato bene o cosa? Prova a attaccare lo strumento e a riattaccarlo, a vedere. Domani ci provo. Sì, l'avevi avvitato tu, non è che una volta che l'ho avviti. Comunque, domani provo e lo rifaccio, dai, gli do una controllatina, perché dal dì, come si suol dire, non l'ho più toccato, ho solo staccato il cavo e basta. Può darsi che ci sia anche poca terra, magari, non lo so, qualche topolino, ha rosicchiato il filo, qualche... perché è impossibile che lui col capo, come è stato messo, sia entrato, perché una maniera o nell'altra figlia è culturata. O almeno che tu hai detto l'altro giorno, cioè i tuoi cani che erano in Ramadan, dopo mai la scossa, non è che hanno toccato qualcosa, dopo mai si sono burigati a Hlugu e hanno strappato qualcosa? Sì, te l'ho detto, l'hanno strappato e l'ho rimesso a posto, l'ho rimesso tutto quanto come era prima. Addirittura per essere sicuro che arrivasse bene la corrente, ho messo anche un cavo di massa lungo 20 metri, che era, ti ricordi quel filo del dipolo che abbiamo smontato, quello giallo verde che era lungo, e l'ho messo dalla parte di su dove ne ho preso, l'ho spulciato, l'ho messo bene, l'ho legato bene, sino andare, l'ho doppiato praticamente, gli ho dato una nuova maniera di andare corrente in giù. Sì. Boh, devi vederlo un po' com'è, devi vedere un po', mi fai sapere, magari, dai, mollo un attimino e se hai problemi vengo, te lo controllo. Però è strano, stacca e riattacca la macchina, comunque staccala e riattaccala, perché può darsi se ha preso, diciamo, se è rimasta poco tempo a massa lì, ha una sorta di protezione per non bruciarsi, mi segue? Quindi stacca e riattacchi la macchina e magari prende e riparte, perché una volta che lei fa il suo dovere, se rimane molto tempo, diciamo, se chiude il circuito per molto tempo, lei mi sembra che funziona, che va, che ha 10 secondi, capito? Poi va in blocco, poi come stacca e riattacca la macchina, riprende. Non vorrei che sia successo quello. Non credo, Gavi. Non credo, perché sento la corrente scaricare, io la sento, siccome scarica praticamente dentro il filo gommato, non so perché, sinceramente non so, nel collo della massa giallo verde. Allora se la sta scaricando non va in azione, sì. Capito? Tu non devi sentirlo lo schicchio, tu tac, non devi sentirlo. Se tu lo senti non sta agendo sull'animale. Cioè, se tu senti quel rumore lì sta scaricando a terra, e se dovesse entrare qualche animale non prende la scossa, perché sta già scaricando. Oppure la prende lieve e non era tutti nuda. Tu quello non lo devi sentire. Allora, il filo che abbiamo messo noi, quello nero, l'abbiamo collegato a un filo singolo che c'è all'interno. Siccome all'interno ce ne sono tre, stava scaricando uno dei fili che l'aveva collegato. Ok, quindi sta facendo dispersione, c'ha qualche cosa sbucciata il filo conduttore e sta scaricando. E così gli sta dando la metà, gli sta dando un quarto della potenza che ha la macchina, eh? capito? Quello vuole preso e vuole proprio isolato, ma è strano, non lo faceva, cioè era liscia liscia, poi quando gli davi la terra dava la scoccata, non lo deve fare quello lì, gli deve stare in silenzio, gli deve stare in silenzio e poi quando c'è qualcosa allora sì, dalla sfiammata, dalla sfiammata, però non, cioè o utilizzo normale, deve stare in silenzio, deve stare in silenzio, quando agisce dalla sfiammatina. Sì, qua è pronta la cena. Ma stanotte cosa fai? Entri o devi, o impegni? No, no, non credo di avere impegni. Devo verificare un po' che ora rientra Nicolas, se deve rientrare Gabriele, dopodiché già sono qua in zonzo. Va bene, va bene. Sono anche di là, eh. Sono anche di là. Sono qua di là e su, ok? Io qua sono seduto a tavola, devo mollare. Sentiamo dopo, ti buona cena quando la farai e buon tutto. E buonasera anche a chi fosse all'ascolto. Buona cena a tutti. Ciao ti, a dopo. Ciao Gabi, buona carica, buon tutto, saluta in casa. Va bene, sono qua, chiamala. Yeah, ciao ciao ciao. Vedi tu. E allora, come? Mi stavo guardando a canale 5. No, io stavo guardando un film al PC. La televisione ormai no. Non mi acchiappa più. E io mi stavo guardando questo Tussi che vale. Questo Tussi che vale. E va bene, va bene. Ma tu hai quel PC che avevo revisionato io? Sì. E perché non lo provi? Perché ci manca la batteria adesso. Ne devo comprarne due, perché mi serve uno per il V e l'altro per metterlo lì. E poi non so se va bene lì, è attacco Kingwood, devi usare il cavetto che usi dal che è per diciamo per lo Yaesu da banco e da tavolo e il MC60. No, non è attacco Kingwood, ci vuole il cavetto a parte. Ce l'ho, ce lo vorrei avere, però non è Kimball. E tu il 60 come lo metti nel 950? Ne ho due. Ah, ne hai uno proprio intestato per lo Yaesu. Sì. Ok. Ma ascolta un attimino, ma la posso alzare un po' l'amplificazione oppure va bene, la lascio così? Per me va bene così, per me va bene, se la vuoi alzare prova e vediamo un pochino. Aspetta che alzo un po', aspetta, fai un passaggio ora. No, era per capire se la, cioè se è chiara la lascio così, deve essere chiara e forte. È chiara e forte, però se la vuoi alzare, vuoi fare una prova, tieniti in considerazione il punto di adesso e prova. Ok, adesso c'è il macchin al massimo, guarda un pochino. Non ha cambiato niente. Non ha cambiato nulla? Sei alzato? No, io ho lasciato il volume per com'era. Ok. Ok, allora lascio così, dai. E poi magari dipende anche dal timbro della modulazione delle taglie, che sono molto assediato. Sì. No, perché posso anche alzare il compressore della radio, è basso. Il compressore della radio è basso, però se bisogna vedere se entra qualcuno con un HF a portarlo ai suoi livelli. Però se mi stai dicendo che è chiara, va bene, la lascio così. Sì, lasciala così. Aspetta che provo nuovamente il 60, dovrebbe essere ripartito. Questo qua rimane più buono, è un bel amplificato. No, vabbè, quindi la radio è alta, va bene, perché poco fa metto che era basso il radio. Sì, va bene, però non è, diciamo, la radio non è buona, è forte ma non è buona. Aspetta, vediamo un attimo. Guarda un pochino ora se ha cambiato, perché dipende come lo metti, qui stiamo parlando a voce un po' elevata e a bocca travosi. No, si porta pure anche il rumore di fondo, molto amplificato, prova a metterlo a 500. Aspetta, guarda così ha cambiato. Vai. Guarda così, 1, 2, 3, prove tecniche. No, non ha cambiato. Non ha cambiato, ma l'hai messo a 500 invece a 50? Adesso è 500, però non so se va bene. 500 è di lusso? Va bene così, non è molto amplificata? No, non è molto amplificata, è quella che piace a te. Non lo so, aspetta, io non ho collegato neanche il coso, ma non so perché si è abbassata poc'anzi. Perché questo è un microfono che va sotto al tastino, dove c'è in e out. Adesso stiamo andando in out. Sì. Ma va bene così, eh. Se va bene, lo lasciamo così. Vediamo un attimino. Infatti l'altro era... il Kenwood ce l'ho a 50, anziché a 500. E qua vuole a... questa radio vuole a 50, ma a 500, scusa. E così va bene. Con quanti watt stai uscendo? Tutti quanti, perché in FM è così. No, io ho 10 watt, con 10 watt, eh. Proprio basso. No, vabbè, lo posso abbassare. Aspetta, a ricordarmi il 111. Lascia le sciare, tutti i dini, lascia le sciare, fregatene. Non lo toccare che puoi rimetterlo per là, è un casino. No, guarda così, adesso 10 watt. È sempre fondo scala, sì. Sei sempre fondo scala. Ma ti ho mandato quel messaggio l'altro giorno che mi hai detto cosa era. Quindi sono i codici per quella radio. Ho capito, ma bisogna sapere come fare. Cioè devi accenderlo, tenere premuto e farlo, oppure accenderlo e fare direttamente. Devi accendere, non so qual è la procedura, la chiediamo a Luca quando è. Ti devono uscire quelle cifre lì, se escono quelle cifre lì è già stata modificata. Se non ti escono devi mettere quelle cifre, allora sale di potenza. Ok. Quindi adesso ho l'MD100. Non so se te ne sei accorto, l'ho tolto perché era scomodo averlo in mezzo ai piedi. Non ha cambiato, eh? non ha cambiato. Niente. Allora va bene, capito? C'è in accoppiata con questo. Cioè, va bene. No, a me interessa perché molte volte questo dà dei problemi. E quindi un microfono sostitutivo, dai, ci vuole. Io sto usando il mixer con questa radio. Sto usando quel sistema SSB, quel mixer. Infatti mi devo ascoltare per vedere com'è, ma se mi stai dicendo che è buona, poi tu sai come la voglio io e quindi va bene così. Sto usando il mixer con un microfono, con un gelato da col PTT manuale e un gelato, uno Shure da uso professionale. Non tocca se. Oh, lo sai che Gabriele ci ha comprato, non so se ce l'hai presente, allora, ci ha comprato un microfono che si attacca al telefonino, all'iPhone, si registra, siccome sta facendo dei video così, no, per gioco, e si registra la voce, anche un po' di effetto camera. Gli ho detto guarda così, gliel'ho regolato senza effetto camera, senza niente, ho detto parla a distanza. E stava parlando, e adesso parla vicino proprio come mi stavi dicendo tu, che cambia molto la modulazione. Ma c'è la radio bella che ha. Guarda che io adesso sto parlando a 5 centimetri, ma con la voce molto bassa. Sai come parlo in radio, non rimango a, diciamo, non urlo, rimango molto pacato. Niente, detto, no vabbè, quelle sistemi iPhone sono ultimi, sistemi di registrazione, sistemi di microfoni iPhone fanno paura, sono veramente di ottima qualità. Ma allora l'ha comprato, costa 30 euro, è praticamente un microfono basso e tozzo, praticamente forse sarà 10 centimetri, però è molto, di circonferenza è molto largo, no? E poi ha una retina davanti che vabbè, serve per il coso della voce. Comunque è a suo piedistallo, è bellino, ma non pensavo che era, poi ha due tonalità, sia la voce normale che l'effetto camera. Sì, sono, non è proprio il microfono che dà, perché di lì in quei sistemi iPhone puoi mettere anche un microfono normale, è proprio il telefono, proprio lui che ha un processore di, diciamo, vocale, che sono il top, beh, li paghi, il telefono li paghi, però in queste cose sono avanti 100 anni, sono belli. Poi magari un microfono semi-studio, dai, con l'attacco USB, e tu entri all'iPhone, sì, davanti all'antipop si chiama quello si chiama l'antipop. Lui per parlare è per il questa cosa, quello non lo mette in risalto, ce l'ho anche io, non l'ho montato qua, ma ce l'ho anche io, perché altrimenti mi stava con questa cosa antipop fare, e qua in radio, nelle radio non serve, perché intanto prima o poi hai, non hai proprio delle, io sì, posso toglierla dal mixer, posso togliere questa sorta di disturbi, non sono disturbi ma sono effetti di equalizzazione, però i microfoni servono perché poi il sistema iPhone te li amplifica tanto, te li amplifica e hanno una sorta tipo Vox, roba del genere, che ti fanno ti fanno sia ascolto e sia parlato lo fanno stupendo. Sì, ho capito, No, ma infatti ho detto, ma scusa, perché te l'hai comprato? Ne avrei dato uno, gli avrei voluto dare un MP5, però c'era da intestarlo con credo l'attacco dell'iPhone, quindi non so se c'è qualche commutatore da uno all'altro, capito? Il P5 ha bisogno di corrente, il P5 ha bisogno di corrente, Peterfield ha bisogno di 9 volt, quindi vanno l'USB a 4 volt e 9, 5 volt, e il P5 va a 9 volt e poi probabilmente andrà anche in conflitto con il telefono. Di lì l'unica cosa era prendere e attaccare, avere il computer, dopo una sorta di cavetti vari, ci sono dei programmi da scaricare nel computer di equalizzazioni vocali, e allora di lì riesce a fare una bella cosa con l'iPhone, proprio riesce a fare una proprio bella. A livelli professionali, a livelli importanti, ci vuole una scheda audio, computer, e allora di cui viaggiare con la qualità. No, è una cosa un po' così, dai, è giusto per gioco, quindi, a parte che purtroppo io non ho una cameretta grande per poter dedicargli un angolo su queste cose qua, su PC e ballerare, capito? Quindi se no magari avremmo anche organizzato una cosa del genere, perché sta facendo delle cose che al suo interesse stanno andando avanti, capito? Quindi l'avrei anche voluto un po' lanciare su queste cose qua, ma meglio che si faccia la scorza a modo suo, dai. Sì, ma ti ripeto, lo parlo è un po'... non è neanche complicato, però è un po' anche dispendioso, poi passi da un mondo così per gioco, oppure se hai degli introiti puoi anche investire su questa cosa qua, perché poi chi ti ascolta si accorge, chi ti ascolta e ha orecchio, ha attrezzature, si accorge della qualità audio che emetti, però già con l'iPhone lui ha l'80%, cioè è ottimale all'80%, quindi lascialo fare che i microfoni hanno bisogno di un pannellino davanti. Mi segui? Un pannellino davanti, anche messo con delle staffette nella scrivania, io te lo consiglio, messo anche a 30 cm con un pannello di bugnato, anche quello da 2 cm, gli fai un pannello 50x50 fissato alla scrivania, oppure con due piedistallini piccolini con due L, perché con il microfono hanno un effetto molto, riproducono delle frequenze un po' strane. Quel pannello gli hai tutto, e allora di lì va a farti la modulazione molto secca, cioè si vede che sembra che sia in una stanza chiusa, cioè una stanza proprio chiusa, non hai rumori di riflessione dei muri, non hai tutta quanta questa porcheria che logicamente va a riprendere il microfono, attenzione, loro non lo consiglia, però io ti parlo professionalmente, ci vuole per fare questa cosa qua, per uscire bene, sarebbe bello fargli un pannellino 50 cm per 50 cm, un quadrato anche da 0,5, e gli attacchi questa sorta di spugna con assorbente, e migliora l'effetto emissione, migliora tantissimo. Sì, ho capito, io, vabbè, ma adesso si gioca così, poi se vuole migliorare, poi vediamo, non è che una cosa, sta facendo delle sorte di pubblicità a suo gusto e piacere. Va bene, sì, uiaia. E già là non hai sentito nessuno? No, è spento. è spento. Ah beh, pensavo che hai sentito Marco. No, non l'ho sentito, ma che ore sono? Aspetta, te lo dico perché ho il telefono. Le 22:40. Caspita, le 11:10. Le 11:20. A proposito, ora però ci sono le tabelle. I tabelli, gli do lo soldo. I tabelli, sono passato. Addirittura mi hanno fermato questi vigili urbani. Una signora e un signore. Ha detto buongiorno, mi scusi, buonasera. Buonasera, buongiorno, me lo do domani mattina. Dove sta andando? Dove sta andando? A prendere mio figlio, che è qua da Eritto, e lei subito. E dove sta andando così di fretta lì? Sto andando a prendere mio figlio che sta uscendo dalla palestra. Questa macchina? E questa macchina del mio amico. E come si chiama questo amico? Gli ho detto no, perché ho riconosciuto la targa, mi e poi lo so che la conosce, la conosco anche a lì, ho detto. E poi stavamo parlando della macchina. Questo consumo, vabbè. Beh. Sì, quando mi riconosci tu, allora pensavo, diciamo, non è per con questa macchina la ci fa. E vabbè, purtroppo non è che devi dare spiegazione a tutti. Dove stanno le usi di fretta? Mio figlio, a me che no, perché quando è così viene, ma ho per caso fatto qualcosa qui, c'è la strada o non ho fatto, no, e l'ho già avuto. No, vabbè, ma tu sai che quella lì era una targa strana, no? Quindi non è che potrei fare neanche il galletto. Sì. Già lo so, ho visto anche dove l'ho posteggiata l'altra mattina. Sì, la parcheggio lì oppure dall'altra parte, in curva. Sì, l'ho visto, vabbè, sì, lì l'ho posteggiata in opera. Oia. E la tua, sempre aperta. La mia l'abbiamo messa stamattina in moto, l'ho fatta scaldare un po', poi sono uscito da casa sua, c'è un terreno che è sempre suo, gli ho fatto fare 2-3 giri del terreno, ma non è grintoso, è proprio vema, la macchina non è fatta niente ancora, capito? Ci sono problemi in officina, quindi sta temporeggiando anche lui, e chissà quando sia giusta, è un problema. Io la città quella è bella, a me te l'ho detto, non è detto, la Mastraglia è sempre piaciuta, porta in giro, ne avevo trovato una, mi ha fermato Manuela, bella, le grigio lo scuro, era la stessa serie, uguale, però non so quella lì se è benzina o diesel, quella che è tu, quella che ho trovato era 2007 diesel, volevano 7500 euro, no, 7500 euro, sì. uguale, però grigio, proprio grigio fumo, e aveva il tetto apribile, bella. Stavo per fare la cosa, la stupidaggine. Sì, mi hai detto proprio bene, la stupidaggine, perché perlomeno, per me no, è una macchina che a me sinceramente non mi si addice, magari mi si addice per la stazza, ma non per le cose che ho in mente io, perché effettivamente consuma un pacco di gasolio. Comunque, questo è gasolio. Sì, si può fare gasolio. Molto consumato. Abbastanza. Qui devo cercare di ammazzare una zanzara maledetta qua. Maledetta. Consuma, io da quando ce l'ho ho fatto già 300 euro di gasolio. Sì. Vabbè, tutta qualsiasi cosa la utilizzi lì. vabbè, io la utilizzo, però voglio dire, non è che faccio chilometri, faccio da casa a lì dove l'hai vista tu, quindi non è che faccio chilometri. Poi vabbè, la sera magari vado a prendere i ragazzi o accompagnare via Sant'Orso, ma non è che faccio grandi cose, capito? Sì, sì, diciamo che non tutti i giorni non fai grossi chilometri. Diciamo che tutti i giorni non fai grossi chilometraggi. Purtroppo lo prima di quella cosa sei più tranquillo, da. Ho la mia, oppure se tutto va bene, se riesco a vendere questa cosa me ne voglio prendere una seconda mano. E quella abbandonarla, tanto non ne vale la pena neanche aggiustarla. Ci vogliono solo trapezi e balle varie. Circa 700 euro a quanto mi ha detto il fratello, perché mi è tenuto che ti cambio solo lo scambiatore di calore e tutti i tubi che sono belli, che di fare lavaggio tutto quanto. Perché non è solo aggiustarla, cambiare il tetto, qui è tutta la, diciamo, tutto quello che c'è dietro per la sostituzione del tetto, dai. Perché anche quando per esempio si rompe la turbina, noi ce la facciamo la turbina, devi fare tutti i lavaggi, devi fare un disastro, non è vero, è vero. Guardatene una che sia in buone condizioni, che non sarà demolita. Vediamo, sono già un po' che ho cambiato il radio. Sento che è un pochino più, ho sentito che ti è mancato il microfono, forse da quel passaggio, ho sentito che era un po' più cupa, però pensavo che ti era allontanato un po' dal microfono, hai dato quella sorta, quell'esempio lì, quella sensazione. Non sto dando le 4.50 ora. Sì. Ma funziona, quel lavoro che abbiamo fatto funziona. Tu lavori di uguale a 4.50, uguale a 4.50 è uscita con un lavoro. No, va bene. No, ma era per usare anche questo, non perché. Perché questa qua era fermata un po'. Ancora ogni tanto l'accendo, però questa diventa secondaria, capito? Perché è più scomoda, è più lontano. Adesso 5 minuti, usiamo anche questa per farlo scaldare appena, dai. Sì, intanto io adesso mi prendo e mi colpo, perché sono un bel pochino, ho sempre il problema di schiena, quello è brutto, no, io ancora adesso preparo la roba a mangiare ai cani e poi domani mi faccio un giro per la recinzione e vediamo un pochino cosa riesco a fare, perché ho tanta di quella rete romboidale, però cacchio, da solo vi è male a piazzarlo, poi mio padre non è che possa fare granché, lui già vorrebbe, però adesso vediamo, se non ci metto 4 picchetti e poi vediamo. Se ti serve il cricchetto per tirarla, ce l'ho io. Sì, no, per quello ce l'ho anche io, uno con la cala catena, non mi ricordo come si chiama, ce l'ho. Beh, io tutto lo salvetto d'acciaio, io non l'ho fatta io, l'agganciavo a qualche parte e poi mi sono giù in mezzo alla rete e tiravo. E mi sistemavo il palio, se non è comodo lo cricchetto, me l'ha regalato il mio socio. Poi quando era l'altro giorno mi ho comprato un palanco a mano e palanchi a catena. Anche perché ne avevo fatto per anche due che non si va, anche se mi serviva, me l'ho comprato un bel po'. Vabbè, però quando una cosa ti serve, io guarda, la te ne parlerò in verticale, ma ho preso già due tranche di liquidazione in accoppiata con con lo stipendio sono uscito liscio liscio al mese, quindi lascia perdere, va. Ma sì, va, ci sono tutti un'altra sabata, non pensare di più, se non pensare di più, se lo spiegato di più. Siamo tutti in alto sabato e tutti siamo purtroppo mi sta accorgendo per lavorare, più lavoro e più lavoro e più mi spendi, più lavoro e più ci succedono. Io sono un po' stufo anche di questa cosa qua, perché mi dice porca miseria, lavoro, beh, però lavoro anche per unico, uno deve diventare ricco, si deve mettere miliardi da parte, però lavoro per anche quello mi guarda soddisfazione, no? Ma la soddisfazione oltre al materiale per lavorare oppure a fare le cose di casa, no. Quindi se non vuoi lavorare ne va pagato. E purtroppo è così. Va bene, capi, dai, ti lascio andare allora. Al limite, se coincide domani, un'altra chiacchierata ce la facciamo. Io sto preparando roba per il cane e poi anche io me ne vado a nanna. C'ho questo che sta russando per russare. E domani mattina si sveglia presto a rompere le palle che deve abbaiare, capito? Quindi meglio che dorma stanotte, si riposi bene, e domani mattina presto deve rompere le palle a me. Esatto, come famiglia si mettono a abbaiare sotto la finestra. Si mettono a abbaiare sotto la finestra se non li vedo. Dai, quindi sì, ci ascoltiamo domani. Stanotte ci abbiamo fatto una chiacchierata qua sui vicini. E va bene, Luci. Di nuovo Tino, buonanotte a te e a tua RA familiare. Buona felicitazione per domani. Domani continuerò a raccogliere il mio libro. E poi lunedì mattina le porto al mulino per fare la marcia. Vediamo, siamo arrivati almeno a 150-200 kg. È buono. Ma se no mi piglio di solo 10. Ho fatto una tranche, poi magari tra due settimane mi faccio l'altra tranche e vedo un po' più di buttarle tutte a terra. Ok, dai, sì, buonanotte di nuovo a te, a tua famiglia, a domani, ciao. Andare, ciao, buonanotte, sotto in casa, va bene, dai, a domani, ciao, buonanotte.